piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Non è necessario svaligiare una banca per sembrare ragazze ricche che si vestono alla moda. Ci sono dei semplici trucchetti che potrete utilizzare per apparire come se foste delle lussuose fashion addicted. Oggi scopriremo alcuni trucchi per apparire elegantissime spendendo pochi euro. Indossate una giacca di pelle. Uno dei primi accorgimenti da usare è quello di includere nel vostro guardaroba una bella giacca di pelle nera. Non importa che sia di pelle vera o falsa, i modelli che vanno ora sono perfetti. Evitate però quelli che hanno frange, bottoni, borchie e zip. Più semplice, eh? Beh, insomma, l'avete capito, perché già l'ho annunciato al giornale radio. Oggi è la giornata del vorrei ma non posso. E vi ho convocato giorni fa per individuare quelli che sono gli indicatori del benessere occulto. Non è che tutti possono fare il chiagnefotti. Oggi vi invito a fare l'operazione opposta. Individuare quelli che ostentano uno status apparente che non hanno. Quelli voglio far credere, vedere, dimostrare di essere ricchi, di conoscere tanta gente, di essere potenti. Ma in realtà non lo sono. Avete sentito poco fa? C'è la terapia d'onde d'urto per l'impotenza. E per chi non reagisce alla terapia orale, che non è stato ben chiaro, però anche questi sono indicatori comunque di un vorrei ma non posso, di non essere all'altezza di quello che in realtà ti presenta la tua natura. Ma sono infinite le occasioni. Pensate, c'è una compagnia russa che affitta un jet privato. Sì, ma non è che ve lo affitta per farci un viaggetto, ve lo affitta per farci una foto davanti, una foto a bordo con l'hostess che vi serve lo champagne, per fare schiattare gli amici. Guarda, ho il mio jet privato, ma in realtà va in bicicletta. Ecco, fatemi capire quanti voi ne conoscete di persone che hanno questa sorta di tenore di vita ostentato, che magari pubblicano su Facebook delle foto in locali favolosi, in delle suite d'albergo stralussuose, quando poi in realtà vanno in 10 nella stanza d'affitto. Poi l'importante è far vedere, l'importante è ostentare. La signorina che abbiamo sentito del canale YouTube La Charla mostra un tipico esempio di vorrei ma non posso. Cioè, la giacca in pelle fa sempre la sua scena. Mettetela, anche se poi non è pelle, è ecopelle, meglio. Se qualcuno dice guarda che è finta pelle, direte ma io sono equo e solidale, non voglio uccidere gli animali, però c'è la giacchettina che magari va a sembrare un po' fighette. Indicatori dello status apparente. 800 24 0024. Prego signora, chiuda gli occhi perché la camera è in disordine. Manovro la maniglia, richiudo senza mai voltare la schiena alla signora. Ah, senza mai voltare la schiena alla signora. Prego signora, la pelliccia. La pelliccia. Ti prego Alberto di non dimenticare mai tutto ciò. Senz'altro. Queste sono da considerarsi regole. Permette. Grazie. In ogni caso. In ogni caso. Niente, buoni. Siccome voi l'educazione non me l'avete mai insegnata, così io cerco di apprenderla dal signor Conte. Bella riconoscenza, con tutto quello che abbiamo fatto per te. Vabbè, non è questione di riconoscenza, è che voi venite dal basso. E tu vieni dall'alto? No, io non vengo dall'alto, ma cerco di migliorare. Scusi, signor Conte, facciamo una seconda ipotesi. Ammetta che io debba far uscire una signora dalla mia stanza. Io sono ancora in pigiama. La signora ha passato la notte con te? Sì, la signora ha passato la notte con me. Orgogna, spoccaccione. State zitta, che sta a sentire tu? Aspetti un momento. Scusi, signor Conte. Solo per un attimo, ammettiamo che lei sia l'amante. Sì. L'accompagni fino alla porta, lei mi segue, signora, lei mi segue. Ecco, l'accompagni fino alla porta. Accompagni fino alla porta. Apri la porta. Apri la porta. Le baci la mano. Il piedino. Il piedino. Perfetto. Un esempio classico, affondiamo le radici nella nostra epoca della gloriosa rinascita dopo la guerra. Alberto Sordi va a lezione dal nobile spiantato Vittorio De Sica per fare il conte Max, per impersonare un personaggio aristocratico, ben educato, che frequenta il lusso e le belle donne, perché gli piaceva una ragazza, era un povero edicolante, quindi non aveva, poteva ambire. E in questo caso erano delle istruzioni di comportamento. Ma in realtà oggi non è più legato al comportamento, è legato agli status concreti, agli oggetti che si hanno, a quello che si può ostentare. Devo dire che I social network aiutano molto in questo. Noi sui social network possiamo senz'altro millantare. Una foto in primo piano di un bicchiere con un cocktail favoloso già potrebbe fare immaginare chissà quale locale stiamo. Poi se abbiamo messo un po' di acqua colorata, delle fette di limone e altre due sconcezze dentro un bicchiere nel cucinino di nostra nonna, nessuno se ne accorge. Conoscete quindi degli ostentatori di ricchezza? Sapete descrivermi? 800240024. Qualche anno fa, un po' di anni fa, diciamo, no? Avevo mio figlio che era ancora un bambino e avevo promesso loro di portarli al Museo Civico di Genova, che è uno dei più grossi d'Italia, no? Arrivati al museo, io non sapevo niente, entriamo, io sono appassionato di moto, no? Di motociclette. Avevo appena finito di fare dei lavori nella moto, quindi avevo robaccia addosso. In più avevo una giacca a vento verde pisello. Entro dentro e c'era, il Museo Civico è stato affittato a una mostra di Cartier, di gioielli e anche pellicce e roba varia, no? Al che ho preso per un miliardario di quelli eccentrici. Questo signore in realtà aveva una sorta di aplomb naturale, perché è capitato in un museo dove erano esposti dei gioielli e l'hanno preso veramente per un miliardario, quando in realtà lui non lo era. Vedete, è molto facile simulare lo status. Ma guarda, la maggior parte delle persone che ostentano status sono dei millantatori. I veri ricchi vanno in giro come dei micragnosi con le pezze al culo, ma è risaputo. Raramente si ostenta la vera ricchezza. La ricchezza ostentata comunque fa parte del marketing che mantiene magari in vita un patrimonio, o perlomeno nasconde alcune falle, alcuni buchi nella storia di una persona. Noi abbiamo questa mattina l'aiuto di una donna informata dei fatti. Abbiamo in studio con noi un personaggio che probabilmente già conosce chi ha frequentato, chi frequenta i miei viaggi in treno, Mascia Valentino. Mascia, buongiorno. Buongiorno. Mascia Valentino, la ricordate? La battezzammo noi alla gloria della Hollywood romana quando arrivò con una valigina di cartone dalla Puglia e approdò alla nostra redazione. Oggi è una affermata e titolata donna di spettacolo, e quindi però ci può raccontare esattamente quante ostentazioni e millantatori è stato costellato il cammino in questi tuoi 2 anni. Quanti? 2 anni che tu sei? Sì, esattamente. Questi 2 anni a Roma, quante ne hai viste? Tantissimi. Fammi qualche esempio, andiamo a esempi concreti. Beh, allora, visto che insomma l'estate è passata non da molto, soprattutto la situazione estiva lascia a questi millantatori la possibilità di farla davvero grossa, di spararla grossa. Perché al mare basta un costume, uno può far finta di essere ricco. No, le barche. Ah, le barche. Le barche. Nel senso che praticamente si fanno magari invitare degli amici e si fanno le foto al timone facendo finta che è la loro, esatto, la barca. Esatto, praticamente sì, questo succede anche, quindi ne ho viste tantissime di queste. Io mi ricordo una cosa, Mascia, un episodio tenerissimo, però lo devo ricordare al pubblico. Mascia venne a Roma i primi giorni e usciva, andava nei locali che contano a Roma, dove va la gente che conta, perlomeno nella sua ottica. In uno di questi famosi locali, che non cito perché ultimamente è stato chiuso per traffici strani, hanno arrestato tutti, mi disse il giorno dopo: ho conosciuto un uomo favoloso, importante, mi piace tanto, ricco, pensa che gira col Ferrari. Dico: ammazza, ti ci ha portato in giro? No, me l'ha fatta vedere. Che vive vicino San Pietro. Te l'ha fatta vedere sullo smartphone. Cioè, c'era nello smartphone la foto della Ferrari. Poi vedi quanto basta per illudere una povera ragazza che viene dalla Puglia. Ecco, dimmi altri episodi. Le donne come ostentano il lusso? Allora, che non hanno? Le donne soprattutto con le borse che spesso tarocche. Affittano. No, tarocche. Si perché tra loro le riconoscono quelle tarocche, si affittano. Ah, c'è un mercato, sì, delle borse. Esatto. Non e lo sapevi? Non lo sapevo. Praticamente adesso tramite internet si può anche affittare per una settimana una Chanel, non lo so, oddio. Ci fai 2 serate e sembra chissà, esatto, chi sei. Esatto, praticamente. Ma è fantastico. Sì, è fantastico. Ma anche le scarpe? Anche. Ah, quindi uno si può essere ripulita. Cenerentola, sì, diventa improvvisamente una principessa comprando tutto se in affitto. Se hai degli eventi, se hai delle cerimonie, se hai praticamente magari hai comunque dei ricevimenti a cui vuoi apparire in un certo modo, si può adesso fare tutto con internet. 800240024. Vedo un po' timidi, prendo conto che è doloroso affermare anche quanto uno nella propria vita privata alle volte fa dei bluff, ma ce ne sono tantissimi. Uno millanta studi che non ha fatto, ad esempio, e questo succede da manuale. Uno millanta frequentazioni che non ha, magari una persona che ha incontrato una volta gli ha stretto la mano insieme al 300, si fa un selfie in quel momento, ci vedi, io conosco il presidente, io conosco l'onorevole, io conosco il tal personaggio personaggio dello spettacolo. Sembra Verdone quando va appunto millanta il suo ospite che sapeva tutto e conosceva tutti, conosceva Joe Wayne, aveva conosciuto tutti. Ecco, non è esattamente così. Beh, nella vita privata, nella vita quotidiana, quante volte voi avete bleffato? Perlomeno, quante volte avete individuato il bluff in altre persone? Ora Mascia ci ha detto delle borsette affittate, delle scarpe affittate, della possibilità comunque di affittare ad esempio una suite e farsi delle foto, fare un ricevimento e mostrare che ci si può permettere quello. Vediamo un po', andiamo avanti Mascia, nelle tue frequentazioni, altre persone che hanno raccontato panzane enormi, si vede chiaramente che dietro la ricchezza ostentata c'erano le pezze al sedere. Senti, guarda, adesso veramente è molto facile, c'è proprio la categoria di quelli che individuano le persone che sono nel jet set e sono bravissime praticamente a intercettarle e a farsi anche invitare. Per questo agli ha un valore di mercato. Sì, sì. Soprattutto c'è nel tuo lavoro una che si fa vedere con grandi personaggi allo spettacolo, certo. E ci vedi chi frequenta. E magari non fa niente. E come fa? Ci si buca le feste? Come funziona? No, c'è praticamente adesso, magari molte di loro, molte mie colleghe, riescono a intercettarle con Messenger. E quindi comunque anche il canale Facebook aiuta moltissimo. Ah sì, perché questo. Oggi con Messenger può entrare diciamo nella vita privata di una persona. Esattamente, quindi chi è più avvenente riesce chiaramente a farsi invitare, questa cosa l'ho vista fare diverse volte. E quindi con donne verso uomini soprattutto. Ma anche, voglio dire, creare una fitta e finta rete di amicizie femminili. L'importante è che si è nel jet set, quindi chiaramente... Perché questo ha un valore, questo è come una volta... Assolutamente. Una volta far vedere, è come far vedere la foto sulla barca, far vedere la foto col personaggio che conta. Oppure alle conferenze stampe, dove comunque sai che ci sono degli attori importanti, soprattutto appunto io venendo dalla Puglia e avendo la possibilità di essere a contatto con le diverse produzioni, con diversi attori, c'è gente proprio che lo fa di mestiere, cioè arriva lì per farsi il selfie con l'attore importante. E poi cosa ne fanno di questo selfie? Lo mettono nel loro profilo? Esattamente, creano tutta una fittizia rete di sì, personaggi. Esattamente. Beh, questo magari non sono neanche attori. Questo appunto. È legato al mondo dello spettacolo, su questo Mascia ci sta riferendo, però mi piacerebbe capire anche nel quotidiano, anche nelle relazioni, anche nei rapporti con gli amici, sempre quello che vuol fare lo spaccone, che mostra di fare vacanze in luoghi favolosi, che poi oggi vacanze si fanno in tante maniere, uno può andarci con avventure nel mondo, a dormire negli ostelli e a dividere il bagno con altre 50 persone, però ti fai una foto di fronte alle bianche scogliere di Dover oppure da altre parti, mi sembra chissà quanto ho viaggiato. 800240024, vi vedo un po' stanchi stamattina, vi dispiace tanto, vi pesa tanto dichiarare quelle che sono le maniere fittizie per mostrare ricchezza. Vediamo un po', torniamo un pochino alla storia e vediamo un po' come si comportava il Conte Max. Sono arrivati i camerieri, mi parlava in inglese, mi parlava in francese. Poi a un certo punto si è avvicinato un paio di dame, signore eleganti, che secondo me avevano anche i mariti lì. Parlavano in inglese, a quel punto lì gli ho detto, guardi che io sono italiano, no? E a un certo punto una mi ha detto, ma dove abiti? A Portofino? Dove abiti? Insomma, facevano tutto loro. Dico la verità che ero combattuto, se dare fiato, no? A questa cosa qua, poi ho scelto la via di mezzo. Gli ho raccontato delle gran balle, glielo dico chiaro. Mi arrivano informazioni di altri ostentatori di ricchezza presunta, lo status apparente, comprare una macchina di lusso, mi racconta il professor Chiappini di un suo conoscente con una BMW 520, che è una macchina lussosissima, però va con l'impianto a metano, che è una cosa micragnosissima, capito? Perché devi andare lì, mettere il bombolone, il metano poi puzza quando sfiata un pochino, quindi uno vuol fare il grande con la BMW lussuosa, porta qualcuno, però magari in un momento in salita o in una ripartenza arriva la zaffata di metano dentro e ti dimostra che in realtà la tua è soltanto un grande bluff. Ti è mai capitato, Mascia, di avere persone che tu le hai scoperto proprio la micragna, che magari ci sei uscita, sei arrivata proprio al punto? Guarda, in cui... sì, proprio a Roma. E da cosa si vede? Allora, praticamente mi è accaduto questo, che con amici eravamo usciti per una serata, una presentazione di un film, e una persona si è fatta praticamente accompagnare davanti a un palazzo bellissimo. Ha detto, è casa mia. Stupendo, è casa mia. E poi praticamente lui aspettava che noi andavamo via. Praticamente. Poi nel momento in cui siamo ripartiti, noi ci eravamo preoccupati perché era tipo le 3 di notte. E invece poi con la coda dell'occhio mi sono resa conto che andava nella stradina a casa. A prendere la metropolitana per andarsene naturalmente nella sua casa di borgata. Simone, buongiorno. Simone, il primo coraggioso. Buongiorno. Ma perché la gente è tanto titubante questa mattina, non vuol raccontare? Perché sono segreti che fanno male a tutti svelarli, forse. Non fanno male a nessuno, sono anche divertenti. Allora, vediamo quello che sei te. La cosa ora molto glamour è alle feste in discoteca o alle feste, diciamo, organizzate. Viene acquistato dello champagne, 5, 6, 10 bottiglie di champagne, delle più famose, con l'etichetta che si chiama Luminor, che nelle foto riflette, praticamente si riesce a riconoscere quando si va a pubblicare le foto su Facebook o sui vari video YouTube. Ma questa è una cosa inedita. Allora, ci sono dei tipi di champagne con l'etichetta Luminor, che quando fa il selfie... Sono le più famose, le marche famose. Le marche più famose. E viene fatto due versioni diverse, la classica e l'etichetta Luminor, che praticamente in discoteca con le varie luci che riflettano si riconosce l'etichetta e si riconosce il tipo di champagne che uno beve. Beh, uno dentro ci può mettere anche lo spumante Riccadonna. Qualsiasi cosa, l'importante è che sia l'etichetta, poi uno ci può mettere anche la gazzosa. E allora l'etichetta Luminor dà lustro alla bottiglia di champagne, dentro ci può fare quello che vuole uno, però comprare lo champagne con l'etichetta Luminor, uno ha la certezza che nelle foto in discoteca apparirà luminescente la marca dello champagne di lusso. Grazie, Simone è stato il primo, l'apripista. Aspetto altre segnalazioni, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Melog. Dicevo sì quando dicevano abiti qua, abiti là, sì, però ho anche la casa qua, ho anche la casa là. Ma è andata avanti per parecchio la cosa, è andata avanti quasi un'ora, eh. Ci mettevano anche un po' in mostra, eh. Un po' di décolleté, un po' di... un po' di spacco. Non sapevo come fare, qua mi buttano fuori a calci nel sedere, mi hanno chiesto alla fine il numero di telefono, che confesso con un po' di vergogna che gli ho dato il mio numero di casa alla rovescia. Non c'era malizia in questo signore, trovato per caso in un ambiente lussuoso, hanno tutti preso per un riccone, quindi naturalmente le donne gli facevano la corte, gli uomini lo vezzeggiavano, ha provato il brivido di sentirsi ricco. Molti lo vogliono fare, molti lo fanno, molti hanno mezzucci per farlo. In parte Masha Valentino, la nostra amica attrice in cerca di fortuna a Roma, ci ha raccontato come funziona il mondo dello spettacolo. Borsette prese a nolo, scarpe prese a nolo, la biancheria no, quella non è portata alla sua. Sì. Ma però la cinese si trova, sembra quasi buona, no? E anche 50 centesimi sì. Si trovano nei mercatini. Usata. No. Però scusa, di notte fa le scintille, acrilico puro. Acrilico cioè puro. Lancia le fiammate. Non lo so, queste non le ho mai usate, Gianluca. Vabbè, non... Comunque, anche in quello si può millantare, non tutti hanno, diciamo, la sensibilità di tocco per capire la mutanda di cotone o di seta e la mutanda di acrilico. Giuseppe, buongiorno. Buon Giuseppe. Cominciamo. Oh, buongiorno. Finalmente dei segnalatori di lusso ostentato. Andiamo al punto. Sì, guarda, ciao, io chiamo da Lecce, in realtà dalla provincia di Lecce. Praticamente a me capita, poi ho 35 anni, quindi giravo i locali pure fino a qualche anno fa, poi sposato. Ecco. Praticamente io vedevo che della gente, a parte sempre palestrati, sempre depilati, macchine, si comprano le macchine di lusso sempre pulite, le mode, vestiti sempre l'ultima moda, poi... Vai a vedere... Poi li vedi a cena, praticamente non vengono a cena ma mangiano a casa, pane e pomodoro per dire, vanno in un locale la sera, bevono un bicchiere di prosecco che se lo fanno durare 3 ore per dire, capito? Ma cosa sono quelli? Ricchi veri, quindi micragnosi e taccagni? Sì, ma sono quelli che praticamente hanno uno stipendio, che vogliono ostentare, che hanno la macchina, la cosa, ma in realtà non arrivano a fine mese. Non ci arrivano. Non vanno a mangiare fuori, non vanno a mangiare e a bere nei locali... spendono 5 euro, capito? Beh, questo è terribile, averci la macchina bellissima da mantenere. Ah, mi è arrivata una segnalazione molto importante che probabilmente fa parte anche del coté di micragna nascosta che sta dicendo Giuseppe. Mi segnala l'amico Massimiliano che c'è un self-service... c'è il self-service di Carrefour in via Laurentina dove la benzina costa poco, sempre pieno di SUV 70-80 che fanno il pieno, SUV da 70-80 mila euro che fanno il pieno, ci sono le code fino a via Laurentina altezza Colomba, quindi comprano il SUV, non se lo possono mantenere, fanno 6 ore di fila sulla Laurentina per prendere la benzina che costa meno al self-service al Carrefour, quindi anche questa è una maniera per mantenere uno status che non si ha. Fabio, oh, finalmente siete arrivati, lo sapevo che arrivavano. Fabio, dai. Ciao Gianluca, innanzitutto è un piacere parlare con te. Spara palle incatenate. che non è una pratica sadomaso, è una cartuccia per ammazzare in maniera indelebile fiere di alto fusto, dai. Ok, ma se mi permetti una piccola divagazione, l'ostentazione che vedo spesso io non è di robe materiali, mi spiego, io sono per passione, mi diletto a correre, faccio gare di maratone, mezze maratone, e mi capita quando vado a gare, piuttosto che ad allenamenti, di vedere gente con l'abbigliamento tecnico, ma proprio, ma che una maglietta ti costa anche 80-90 euro, cardiofrequenzimetri mega satellitari di super lusso, e tu dici, mamma mia, questo qui è un professionista. Fa la maratona di New York come niente, invece? Sì, e poi li vedi un chilometro dopo, Paolazzi, a bordo strada quasi, che già non ce la fanno più. Ma lì dov'è il vantaggio? Fingersi un grande sportivo, dire che in realtà... Probabilmente sì, probabilmente gli dà forza il fatto di vestirsi col pantaloncino, col baffo, piuttosto che con la pantera. E quindi quello, io... sono modesto, sinceramente, non sono né forte. Sì, guardi, io ogni tanto passo sotto casa mia la maratona, quella di Roma, c'è cioè una volta l'anno una grande maratona. Allora i primi sono sempre gli africani, corrono a piedi nudi, quelli. A piedi nudi con dei pantaloncini di fatti di niente, una maglietta schifosa, e arrivano sei ore prima degli altri. Gli ultimi, quelli che sfiatano, li vedi proprio così, sono esattamente tutti vestiti fosforescenti, con magliettine fosforescenti. Ecco, è un po' un'ostentazione di ricchezza non materiale, se vuoi, perché vabbè, magari se lo possono permettere un po' tutti, ma di prestazioni che non ho. Perfetto. E di fondo quello che non sono. Ma ci rientra, è molto pertinente al tema, perché ostentare uno status sportivo, anche questo, quelli vanno in palestra con il borsone, con tutte le tutine così, poi stanno 30 secondi sul tapirulan, poi si vanno a prendere una spremuta allo zenzero, poi vanno a fare la sauna, poi escono e hanno fatto una mazza, però si sono fatti vedere. Mia, oh, finalmente una donna, Mia. Sì, buongiorno Nicoletti. Ma perché c'è, scusa Mia, mi dici perché c'è tanta titubanza da parte delle donne a svelare quelli che sono gli strumenti più infimi e più infidi di seduzione? Perché non lo dite? Perché forse non c'è abbastanza autoironia, bisogna essere molto autoironici, prendersi poco sul serio per svelare queste allora, dai, cose. Fai il tuo coming out. Penso, io devo svelare una cosa che ha fatto una mia amica, però confesso che anch'io tante volte lo fai. Faccio un po' finta, sì. Metto il bicchiere di prosecco in cucina, alzo il calice, poi dico yeah, festa, ma in realtà sono ti fai un selfie. Sì, e ti trucchi pure, metti le unghie tutte smaltate. Solo, no, faccio vedere solo la mano con l'unghia. Quindi un po' solo sulla mano del prosecco, non c'è mica tempo da perdere con quell'altra mano. Certo. Sono soltanto le tre dita che si vedono nella foto. Sì, sì, è millanto, un divertimento. Vedere la mano più bella, quella senza macchie, quella più carina. Sì, sì, metto un po' di filtri così si vede. Certo. Filtri Instagram. Sembra una mano pronta a prendere qualunque cosa. Allora dai, andiamo al punto. Il punto è che io mi diverto tantissimo ad assistere a una guerra su Instagram a colpi di foto tra due mie amiche, cioè sono cognate tra di loro, e quindi io sono un po' così, sto col sacchetto di popcorn a vedere queste foto, perché loro devono suscitare invidia l'una verso l'altra. Ma cos'è, no? Che ostentano per essere invidiate, per farsi invidia di c'è? Ostentano appunto festeggiamenti, ostentano vacanze molto divertenti, ma in realtà io so che non è così. Cioè svela la loro micragna. Come si fa a ostentare vacanze divertenti? Ostentare vacanze divertenti si fanno le foto magari di una spiaggia semideserta con le nuvole, non c'è nessuno, una giornata abbastanza triste, però mettono tutti gli hashtag holiday, happy, giornata bellissima e tutte queste cose qua, insomma, che poi alla fine... Sì, ma tu leggo la scheda della persona che ha ricevuto la tua telefonata, c'è qualcosa che so che ti pesa dire, i regali di compleanno, questa la devi dire. Sì. Ecco, questa la devo dire, perché questa secondo me è stato il top di queste ostentazioni false, no? Una ha pubblicato i regali di compleanno che ha ricevuto e tra questi regali ha infilato la foto, ha fatto le varie foto ai singoli regali. E quali erano, no? I regali, diciamo, i banali regali che aveva ricevuto? I banali regali erano i soliti profumi o la borsa. Gli olietti comprati al supermercato. Sì, la bigiotteria, così, un po'. I saponi naturali che costano un euro e mezzo, te li tirano dietro. Quelle confezioni già pronte, no? Dove dentro c'è magari il bagnoschiuma, c'è la crema corpo, c'è il sapone. E in mezzo a sta robaccia cosa ha messo? In mezzo a sta robaccia ci ha cacciato la foto di una Chanel borsa da 5.000 euro, che proprio non ci sta. Non ci stava niente, non ci azzeccava niente. E dove l'aveva presa questa foto? Google. L'aveva scaricata dal catalogo di Google. Ma pensa un po'. Masha, riconosci questa cosa? Sì, sì, sì. Masha riconosce, perfetto. Su Instagram soprattutto, tutti sentono fashion. Quando vedete della roba di lusso stentata, fate il confronto con la foto, vedete già dove appare in Google, immagini, e vedrete è stata presa da un catalogo. Grazie. Alessandro. Buongiorno Nicoletti. Sì. Veloce. Io ho lavorato tantissimi anni in un prestigiosissimo circolo del golf, come Bene. Cameriere. E lì ne ho visto un po' da quel punto di vista di cotte di crude, cioè gente che si iscriveva alle gare che costavano milioni l'iscrizione, poi invece di venire al pranzo sociale li trovai a mangiare il panino di nascosto dietro una riva. Cioè, poveracci che ancora penso, dire esco con le mazze da golf sono come succedeva negli anni 40, sintomo di ricchezza. Arrivavano con le mazze apprese a noleggio, non parcheggiavano neanche nel parcheggio del circolo. La mazza a noleggio è mazza a noleggio veramente ignominiosa come cosa. Parcheggiavano le macchine in un prato lontano dall'ingresso. Poi c'erano macchinacce. Perché non far vedere che c'erano l'appunto, però poi li trovavi in giro. Ah no, perché io sono socio del circolo. Poi ti diceva la direzione che paga, cioè, tribolavano a prendere i soldi a fine mese perché costava svariati milioni e poi migliaia di euro l'iscrizione come socio. Quindi anno. Il poveraccio che ostenta il golf, che pensa che ancora sia uno sport d'élite, quando è uno sport bellissimo, praticato da chiunque, oggi chiunque può praticare golf. C'è anche un campo di golf comunale qui vicino a Roma, lungo la strada di Tor di Quinto. Uno scende giù, è il campo del comune, può giocare a golf, non c'è bisogno che ostenta nulla. Magari ci vanno con le scarpettine fighe, col cappellino, il pantaloncino da golf, che pensano che questo possa essere. Te ti lasci sedurre da uno vestito da golf? No. Ma figo, poi con le mazze finte, pensiamo. Con le mazze finte. Ci troviamo un istante, a tra poco. Melog. Fantastico, stanno arrivando inedite notizie su quelli che sono gli ostentatori dello status apparente. Enzo, buongiorno. Pronto, buongiorno Nicoletti. Allora, questa è una cosa che è successa quando ero ragazzo, a fine degli anni 80. E c'era un ragazzo presentato in una comitiva, c'era un ragazzo che si presentava il weekend con la Ferrari. Poi ho scoperto che lui lavorava ai mercati generali di Roma e tutto il suo stipendio lo spendeva per affittare la Ferrari nel weekend. Cioè scaricava cassette di frutta e verdura tutta esatto. La settimana all'alba. Tutto, ma si faceva un mazzo che non finiva più. Era e con quei soldini andava, affittava la Ferrari e faceva la botta di vita. Sì, il sabato sera, all'epoca il venerdì non si usciva il sabato sera. E il sabato sera lui si presentava col Ferrari, e sto parlando di fine anni 80, quando vedere una Ferrari, insomma... La gente faceva tanti occhi così. Poi era proprio tutta la comitiva che poi comunque da di loro... Ma almeno aveva un utile vantaggio da questo, cioè rimorchiava... Sì, ma non concludeva. Poi non c'aveva i soldi per la stanza d'albergo, non c'aveva i soldi per mangiare e bere, probabilmente non aveva nemmeno i soldi per i profilattici, perché aveva sempre lo stesso che riciclava. All'epoca se non davano di meno, ma comunque non... non, da quello che so io, poi insomma non è che io ci sono stato poco tempo con queste gente. Comunque questo persone. È molto chiaro, molto chiaro. Gli bastava avere quell'alone di mistero, poi al dunque dice no cara, sai stasera mi prendo la briga di scegliere, non mi va bene. In realtà non aveva manco 500 lire per poter mettere la benzina per fare oltre il tragitto casa parcheggio. Noris. Ecco Noris. Allora. Eccomi qua. Buongiorno Nicoletti. Andiamo all'elencazione della vergogna. Altrui. Ah, guardi, cercare di far mantenere una moglie con un certo peso per far vedere che hanno soldi, che hanno una bella vita. Ma certo, moglie... peso nel senso moglie in carne, in questo in senso. In carne, bella in carne, ma certo. Cioè, fare ingrassare questo, la moglie sì. come un maiale per far finta, cioè, a casa mia si mangia sette si volte mangia al bene. Giorno. Esatto, si mangia bene, anche questo c'è. Non lo sapevo, ma da che parte funziona questo in Italia, ma... per capire? C'è gente che è qui in Italia, che abita all'estero, che viene qui in Italia a lavorare per far vedere che vivono bene, che stanno bene, la moglie non può dimagrire, anche questo far vedere uno status. Cioè la moglie grassissima dice ti prego caro portami oggi in un ristorante a mangiare un'insalatina, no, devi mangiare la pasta asciutta se la gente pensa che io non c'ho i soldi. Beh questo è interessante, è un dato antropologico sconosciuto. Lorenzo. Buongiorno. Io invece sono nella condizione totalmente opposta dell'ostentamento. Praticamente io passo per uno che ostenta la bellezza, parlo di vestiti, di scarpe. Sei ricco vero, invece sei ricco vero. No, che ricco vero, io sono un operaio nel settore calzaturiero, quindi... Ah, le rubi al negozio e le riporti il giorno dopo? Praticamente io me le costruisco come piacciono a me. Ah. Poi nel momento in cui mi trovo in qualche ricevimento, qualcosa del genere... C'è sempre qualcuno che mi viene vicino e mi dice guarda queste scarpe le ho viste sul catalogo ad esempio Gucci, bellissime. E tu l'hai fatta con i pezzi di scarto, con gli avanzi dell'industria? Praticamente sì, in tutto e per tutto. Quindi cioè fatte con pezzetti di cuoio, le suole buttate via. Sì, con delle rimanenze. Ma come fai? Le scarpe sono di lusso ma vesti da poveraccio se sei povero. Sopra cosa metti? No, metto vestiti che non sono così costosi. Comunque, che come diceva Totò Peppino in Totò Peppino la mala femmina, le scarpe fanno la differenza. Ah no, scusa, era Totò Falzaro, con i primi 10.000 lire fatte false, si compra le scarpe, Peppino, e sente che scricchiano, dice, le scarpe, sì, le scarpe fanno la differenza. Le è scarpe vero. Fanno la differenza, uno sopra anche mettersi, cioè, uno può mettersi quello che vuole sopra. Ci abbiamo un'altra telefonata, Raffaella, veloce. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Niente, io ho tanto riso una volta, sono insegnante di corsi di formazione di adulti e niente, una volta mi sono trovata con un allievo, un signore di una certa età che praticamente voleva descriversi, io avevo chiesto descrivetevi e cercava con una fatica estrema di descrivermi in francese le sue scarpe provenienti dall'Inghilterra, i suoi pantaloni fatti su misura di non so dove, di cashmere, e faceva una terribile fatica a descrivere, trovare le parole in francese per ostentare tutta questo ben di Dio che lui aveva addosso. Insomma. Basta una sola parola, upim, avrebbe detto tutto quello che descriveva, che aveva descriveva solo. Va bene, Roberto. Sì, buongiorno. Fine anni 80, anch'io vado su quel periodo lì, avevo il mio ex cognato, figlio di un farmacista ma non molto facoltoso, andava a giro con il carrello, cioè con il rimorchio, con sopra una o a volte due moto d'acqua, guaste, cioè che non funzionavano. Ah, tanto fede che andava con le moto d'acqua, beh, grandissimo. Grande. E non ci faceva niente, se le appoggiava e arriva al mare e dice adesso le metto in moto, fra 10 minuti parto. Sì. Andava in posti non frequentati dalle, perché lui proviene. E poi le spingeva a mano, zona... so, cioè andava con remo, con le pinne, come faceva a camminare? Niente. No, lui andava in zone che non erano frequentati dalla sua abitué, ecco, dai suoi amici abituati. E poi andava a farsi un bagnetto, un pediluvio e lasciare le moto. Sì, gli bastava passare dal paese abbastanza facoltoso della provincia di Pisa. Con le moto d'acqua, due, con non le una, moto d'acqua. Due, sì, a volte una, a volte due. Due catorci che non funzionavano. Sì, che non funzionavano esteticamente perfette. Uno potrebbe vendere delle moto d'acqua soltanto la scocca di polistirolo per andare in giro. Masha, l'ultima cosa, Masha, una tua esperienza, hai detto prima affittare grandi locali per fare delle feste, succede sì, locali lussuosi? Sì, perché chiaramente per la gente del posto, chiaramente sono con questo in Puglia, ci sono alcuni locali molto il nome con e poi dopo non c'è il catering e poi magari quando si va per appunto per mangiare si mangia una mazza i crackers e l'acqua minerale, cioè più che altro c'è solo un buffet risicato, le pizzettine rosse, quelle delle feste dei bambini con le patate fritte del sacchetto, più o meno simile, ecco. L'importante è che la gente veda scritto tutti questa sera nel grande locale, poi mangia le patate fritte e popcorn. Grazie Masha Valentino, in bocca al lupo per la tua fulgida carriera. Grazie a quelli che hanno dimostrato che esiste una sorta di status apparente, l'ostentazione della ricchezza, e peggio ancora quasi della micragna apparente che nasconde la ricchezza occulta.